Hashtag Autotrasporti. Hashtag Autotrasporti, buon pomeriggio da Andrea Ferro. Oggi ci occupiamo di City Logistics e sostenibilità con un progetto europeo che coinvolge le città di Bologna e Brescia, dello stop da parte di Bruxelles al decreto sulla decontribuzione degli autisti impegnati nei servizi internazionali e quindi spazio ad un'iniziativa avviata in Campania per migliorare la competitività del comparto della logistica. In primo piano oggi quindi il tema dei trasporti di merci e più in generale della mobilità all'interno dei centri urbani, un tema cruciale in vista degli obiettivi piuttosto ambiziosi fissati dall'Unione Europea sulla strada obbligata della sostenibilità. La sfida quindi sta nel trovare un equilibrio per bilanciare l'efficienza dei servizi con politiche tese a salvaguardare l'ambiente e la salute di chi nelle città vive e lavora. Nella puntata di Ferragosto abbiamo parlato del protocollo d'intesa firmato da Fedit, l'associazione dei Corriere Espresso, e dalla Lega delle Autonomie per estendere ad altre città l'esperienza già avviata a Torino nel nome della premialità. In sostanza centri storici aperti a tutte le ore e furgoni meno inquinanti, un modello di trasporti potremmo dire smart e green, ancor più necessario vista la crescita costante dell'e-commerce. E in tema di City Logistics e sostenibilità, oggi parliamo di un progetto finanziato dalla Commissione Europea. Si chiama Sulpiter, è partito a giugno, terminerà nel maggio del 2019. In questo progetto sono coinvolte 7 città europee, tra le quali Bologna e Brescia. Il coordinatore del progetto è Giuseppe Luppino, della Fondazione sui trasporti e la logistica della Regione Emilia-Romagna, un soggetto pubblico al 100%. Ci siamo rivolti a lui per capire meglio cos'è Sulpiter. Sulpiter è acronimo di Sustainable Urban Logistics Planning to Enhance Regional Freight Transport. È un progetto finanziato dalla Commissione Europea attraverso il programma di finanziamento Central Europe ed è uno dei 35 progetti approvati nella prima call su oltre 600 presentati. Affronta il problema di integrare nei piani della mobilità sostenibile delle varie città il capitolo relativo alla logistica e al trasporto merci, che nelle città del centro Europa viene spesso relegato a poche righe. La City Logistics di per sé non è una novità, l'approccio innovativo di Sulpiter è quello di affrontare la tematica a livello di area metropolitana, o meglio come viene definita nel progetto Functional Urban Area, in modo da analizzare e considerare le aree industriali e commerciali della periferia, che sono spesso generatori di traffico merci e le relazioni delle città tra loro in una stessa area regionale. Ma più in concreto, come si sviluppa questo progetto? Funziona su 3 livelli. Il primo è quello di migliorare la conoscenza delle amministrazioni locali grazie a tool che permettano di comprendere come interagiscano le varie zone della città o dell'area regionale e quali siano i punti critici da un punto di vista di domanda del trasporto merci. Il secondo livello è quello del rafforzamento del dialogo tra le istituzioni e tra istituzioni e attività di business per creare insieme future politiche in ottica di basse emissioni, quindi creazione di gruppi di lavoro anche pubblico-privato in ogni sito partner. E il terzo livello è proprio quello della definizione di politiche a lungo termine con un punto di vista trasversale e intrasettoriale, cioè non è più possibile pensare che nelle città gli assessorati ai trasporti non parlino con le attività produttive o con l'urbanistica, tutto deve essere connesso e tutto deve essere condiviso. Quindi ogni città partner definirà un piano della logistica sostenibile che cercherà di raggiungere gli obiettivi che la Commissione europea ha fissato al 2050, che sono essenzialmente trasporto a emissioni zero nelle città. E sempre a proposito di logistica nei centri urbani, in futuro il servizio potrebbe essere garantito almeno in parte dai robot. Non è fantascienza, a Berna, Koniz e Biberist, le Poste svizzere stanno infatti avviando i primi test per sperimentare la fattibilità di questo nuovo sistema di consegne di pacchi, generi alimentari e medicinali. I robot si muoveranno entro un raggio di 6 km con un carico massimo di 10 kg. E ancora dalla Svizzera, dai robot ai treni. Come abbiamo raccontato a giugno con i nostri speciali e le nostre dirette, il tunnel del Gottardo è stato inaugurato e l'11 dicembre sarà aperto al traffico regolare. In realtà già da oggi, e questa è la notizia, i primi convogli merci transitano all'interno della galleria ferroviaria più lunga al mondo, 57 km, opera cruciale lungo il corridoio europeo Reno-Alpi da Rotterdam a Genova. Quella scattata oggi è una fase intermedia nell'ambito del programma dei test di collaudo. Da qui all'11 dicembre, hanno fatto sapere le ferrovie svizzere, nel tunnel transiteranno 4.500 convogli merci di diverse compagnie. Chiaramente, una volta perda pieno regime, nella galleria del Gottardo sfrecceranno anche i treni passeggeri ad una velocità massima di 200 km all'ora. E torniamo in Italia. Tra le norme inserite nella legge di stabilità nell'ambito degli interventi di sostegno a favore del mondo dell'autotrasporto dopo gli anni difficili della crisi, figurava anche un provvedimento relativo alla decontribuzione per gli autisti impegnati nei servizi internazionali, una misura attesa da tempo allo scopo di contrastare la concorrenza talvolta sleale da parte degli operatori stranieri in grado di contare su condizioni previdenziali e salariali meno onerose e alla fine quindi capaci di praticare tariffe improponibili per un'impresa italiana che opera rispettando le regole. Ma alla fine il decreto sulla decontribuzione è stato stoppato dopo i rilievi mossi da Bruxelles. La situazione è così rimasta al palo, o meglio tra i paletti eretti dall'Europa. Sul mancato via libera a questi interventi abbiamo intervistato Pasquale Russo, segretario di Unatras e FAI Conftrasporto. C'è in questo momento un blocco dovuto da un'interpretazione che secondo noi non è corretta e che non consente di poter destinare questi incentivi che già sono stati stanziati dal governo, dicevo però non si riescono a rendere fruibili per le imprese per effetto di una valutazione diciamo sulla compatibilità comunitaria che noi diciamo non riteniamo in linea e non riteniamo in linea soprattutto perché così come tanti stati europei sulla possibilità di mi faccia passare il termine, tutelare l'autotrasporto nazionale, hanno già adottato dei provvedimenti, quelli sì che sono molto discutibili dal punto di vista della tenuta della compatibilità comunitaria, ma l'hanno fatto. Guardiamo quello che è successo in Francia, guardiamo quello che è successo in Germania, quello che ha fatto l'Austria, quello che ha fatto la Danimarca, quello che ha fatto la Norvegia, governi che hanno preteso di adottare dei provvedimenti per l'autotrasporto nazionale facendo sentire forte la propria voce a livello europeo e noi riteniamo che il nostro governo su questa questione diciamo del sostegno all'autotrasporto domestico nei traffici comunitari in Europa debba essere più deciso e preoccuparsi un po' meno di quelle che possono essere le eventuali doglianze comunitarie. Però una battuta anche da parte dell'Europa, devono esserci dei chiare. Certo, l'idea, il problema è proprio questo, che noi adesso stiamo proprio vivendo in una situazione in cui l'Europa non riesce a garantire un quadro comune di regole per il trasporto su strada nonostante i numerosi tentativi e quindi assistiamo agli interventi che ogni singolo Stato sta adottando per appunto difendere il proprio autotrasporto nazionale ma creando così una grande confusione e dando la netta sensazione che l'Europa diciamo unita dal punto di vista anche della circolazione delle merci e dei mezzi è un'Europa che si sta sfaldando. Aggregare soggetti pubblici e privati per investire in tecnologia e innovazione e contribuire alla crescita economica dei territori attraverso un miglioramento della competitività nel settore dei trasporti e della logistica. È l'obiettivo di Dattilo, il distretto ad alta tecnologia della Campania, che ha già in corso 50 milioni di investimento per la realizzazione di 7 progetti all'insegna dell'innovazione. Tra questi progetti l'elaborazione di sistemi per favorire la sicurezza attiva e passiva dei veicoli e la promozione di una gestione più efficiente delle flotte aziendali. Ad Attilo partecipa anche ANFIA, l'Associazione Nazionale della Filiera Automobilistica. Al nostro microfono il direttore Gianmarco Giorda. Dattilo è il distretto di alta tecnologia di trasporto in Campania, è un'iniziativa molto interessante dal mio punto di vista perché raggruppa aziende private, centri di ricerca pubblici, università nel mondo dei trasporti, per cui logistica, ferroviario e automotive. E stiamo portando avanti progetti di ricerca per una cinquantina di milioni di euro ed è un'iniziativa importante perché crea aggregazione tra aziende e aiuta soprattutto le aziende campane a internazionalizzarsi e a lavorare molto sul tema dell'innovazione tecnologica per essere più competitivi sui mercati internazionali. Uno stimolo di sviluppo per un territorio che è indubbiamente problematico. Assolutamente sì, problematico ma con delle realtà interessanti, ripeto, sia dal punto di vista privato perché abbiamo delle aziende che rappresentano delle eccellenze a livello nazionale e internazionale e poi abbiamo delle università e dei centri di ricerca che hanno capacità sicuramente di supporto a queste aziende, per cui il nostro obiettivo è cercare di far sì che anche regioni del Mezzogiorno come la Campania si elevino e possano arrivare in qualche modo a competere anche su un mercato che ormai lo sappiamo è un mercato globale. Questa puntata di Hashtag Autotrasporti finisce qui, grazie per l'attenzione, noi ci risentiamo lunedì da Andrea Ferro, buon pomeriggio. Hashtag Autotrasporti.